Accendino pista, melodia, vi lo dici in uterrone. Oh mamma mia, yeah man, you can dance all night with the wind. Terror, rebel, sound, selecta. Never stop breaking music, never stop breaking time. We put fire on Babylon and we jamming, jamming, jamming. If you will like Terror, rebel, sound, senti como pompa. Senti bueno, emo, senti cine como canta. Acqua sta in lucilletta, calabasi menti. Estiva Junior, micrófonos eficientes. Terror, rebel, sound, senti como pompa. Senti bueno, emo, senti cine como canta. Acqua sta in lucilletta, calabasi menti. Estiva Junior, micrófonos eficientes. Uso forno dell'one, ma non ho una religione. Canto senza una ragione, vivo per ne viaggio, ne uso l'immaginazione. Porta voce alla ragione, l'unica definizione di eresse queste nuove. Diretto, ma senza biglietto va bene, lo ammetto che questo progetto mi ha preso davvero ed ora farne a meno. Attualmente assurdo non ci penso nemmeno. Terror, rebel, sound, sì, senti come pompa. Agnulo, mano all'aria, se ti piace il suono zompa. Zero problemi, mainstream, underground. A noi basta che gridi forte, terror, rebel, sound. Illuso da una busta, ne fai se sei assurso. Io mi scuso, se confuso, ma ne abuso, sono fuso. L'unica droga di RS, di RS. L'unico di RS, menti più spesse, per niente depresse. Grida più forte TRS, grida più forte TRS, grida più forte TRS. Terror, rebel, sound, senti come pompa. Senti bueno, emo, senti cine come canta. Acqua sta in lucilletta, calabasi menti. Estiva Junior, microfono sufficienti. Terror, rebel, sound, senti come pompa. Senti bueno, emo, senti cine come canta. Acqua sta in lucilletta, calabasi menti. Estiva Junior, microfono sufficienti. Pompa, tu li puliti come pompa. Sopra a mani, terror, rebel, sta monta. Cama, giri, tutti a ballari. E una mano alla le mazzari. E l'ultimo di fagli sugnari. E lo ballamo, fine su pari. Ti muterro, l'ultimo gridando. Una mano all'aria, ogni momento. Ma lui se ti parti in mosso. Tassamo lo salento, penna, tenzo. La macchina sta rosso, mi ricordo, co. Siamo chiano, culo, mi ero già ambriaco, sto. L'udj che non ci aspetta la console. Reggae, scatta, senti buono, sti bagnone. Catano, rega, manetta. Con la danza, gli è perfetta. O mena un'altra volta. Terror, rebel, super balla. La combinazione è fatta. Terror, rebel, sound, senti come pompa. Senti bueno, emo, senti cine come canta. Acqua sta in lucilletta, calabasi menti. Estiva Junior, microfono sufficienti. Terror, rebel, sound, senti come pompa. Senti bueno, emo, senti cine come canta. Acqua sta in lucilletta, calabasi menti. Estiva Junior, microfono sufficienti.